Senza sinapsi. Io sono un pazzo che da nulla grida. Oh no. E se non vede mani in aria grida. Oh no. Quando non trova droga o alcol grida. Oh no. Se l'incoscienza resta sana.